corretta verso alcune posizioni che sono state espresse più o meno esplicitamente nel dibattito sulla questione del debito, ma sia di fondo errata, perché sembra alludere comunque anche lì a due sole soluzioni, no? Se uno volesse tirare a sintesi, perché poi dobbiamo arrivare pure a una sintesi in cui poi si capisce fuori dal dibattito delle sette cerchie che cosa si fa domani. E la diciamo così, la forbice da cui non dobbiamo sfuggire è quella di dire: da un lato aspettiamo il crollo del capitalismo perché è in crisi, chi se lo fotte, e dall'altro risaniamolo per mettere con una manovra più giusta, diciamo così, tra virgolette, no? Ricontrattando il debito in maniera più equa. Io credo che il problema fondamentale invece sia ripartire dal fondo. Innanzitutto, che cos'è questo debito? Perché ovviamente prima di dire se è giusto pagarlo o non è pagarlo, chi lo paga, bisogna capirlo. La prima cosa che noi contestiamo a tutto il mondo dell'economia politica, anche a sinistra spesso, è che questo debito è un debito non pubblico, cioè fintamente pubblico. In realtà è un debito privato, cioè un debito di privati, nel senso che lo Stato non investe più in servizi ma taglia e sposta sempre di più risorse nella redistribuzione verso il sostegno alle imprese capitalistiche, alle banche, alla finanza, alla speculazione. E il risanamento del debito verso la Banca Centrale Europea piuttosto che la Banca d'Italia o le banche tedesche è un risanamento verso soggetti privati, cioè, quindi qualsiasi manovra alternativa non risolve il problema, per un semplice motivo: che non si può ristrutturare per noi, dal nostro punto di vista di lavoratori salariati, un debito trovando una maniera più equa di raccattare i soldi e ridarli a questi speculatori, a questi capitalisti e a questi industriali. Il problema è che i soldi che vanno presi in questo momento, ovunque ci siano risorse, vanno investite a sostegno dei salari, a sostegno del lavoro sostanzialmente. Quindi la ristrutturazione del debito è una cosa che noi escludiamo, e d'altronde nel dibattito di altri paesi, da quello in America Latina dei movimenti popolari che chiedono la cancellazione del debito, la moratoria sugli interessi sostanzialmente, che sono un po' le manovre di strozzinaggio attraverso le quali poi vengono utilizzate come scusa per privatizzare i servizi, tagliarli, ridurre i salari eccetera eccetera, fino al dibattito che c'è dentro alcuni settori dei movimenti sociali anche in alcuni paesi dell'Europa, anche se ancora non hanno uno sbocco politico, si pone proprio il problema che questo è un debito che avete generato con il vostro sistema, che dovete risanare per rimettervi in tasca parte dei profitti e ritornare competitivi sul mercato. Questo sistema non ci interessa, cioè bisogna cominciare a dire una cosa di questo tipo. In questo senso diciamo che il debito è loro e noi non lo dovremmo pagare, per cui non lo vogliamo pagare. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, senza voler fare l'elenco puntuale dei 5 punti, certamente un posto speciale è occupato dalla necessità di dover tagliare le spese militari e di far finire le missioni di guerra. Su questo credo non ci siano assolutamente dubbi e la condivisione è netta. Si fa riferimento d'altronde anche alle lotte sui beni essenziali, quelli che dovrebbero appartenere alla collettività. C'è poi il quinto punto, che è riferito a questa rivoluzione per la democrazia. Devo dire, in questo quinto punto la piattaforma dell'Assemblea sembra incrociare alcune motivazioni parzialmente, chiaramente, che hanno attraversato anche il movimento degli indignados in Spagna, in cui il riferimento al cambio della legge elettorale insomma era molto forte. Ecco, da te vorremmo sapere da cosa muove insomma la necessità di introdurre un punto di questo tipo, se serve esclusivamente a scopo tattico, soprattutto per incrociare anche il dibattito fatto dalle forze che si sono mosse negli altri paesi, oppure se è una necessità sentita e discussa dall'assembramento che ha indetto proprio questa assemblea. Sì, io credo che sia più una necessità sentita a livello di massa abbastanza diffusamente in questo momento, perché credo che l'approccio ideologico anche sul movimento degli indignados ci porta a valutare in maniera errata magari anche questi movimenti. È vero da un lato che esprimono una certa limitatezza di prospettiva, no? Questo è un po' il problema, cioè la prospettiva di classe è un po' confusa e annacquata, per cui la centralità del tamponare gli effetti, diciamo così, della delle problematiche, delle falle di questo sistema sono centrali. Però dall'altro canto bisogna considerare che questi effetti esistono e sono sentiti molto diffusamente, insomma, delle falle di questo sistema, no? È chiaro che bisogna spostarle da un piano meramente etico, come spesso sembra anche qui con le reti Popolo Viola, Grillini, insomma, che criticano alcuni aspetti negativi, e riportarle a un piano sostanziale di interessi di classe anche sulle questioni che vengono enunciate nei quattro punti precedenti, no? Uno dei punti fondamentali per noi come autoconvocati della composizione, per esempio, è questo della redistribuzione del lavoro che c'è, per cui la riduzione dell'orario di lavoro proprio nel regime di crisi, per dare una possibilità di accesso con minor orario a parità di salari e di diritti, ovviamente, per tutti i lavoratori. Accanto a questo va registrato che il sistema politico attuale, che nessuno né dentro e né dei partiti attuali, probabilmente, anzi sicuramente neanche fuori dal Parlamento, in questo momento rappresenta gli interessi proprio sostanziali delle classi lavoratrici, dei salariati, delle fasce più deboli, è un sistema che di per sé tende ad escludere la possibilità di porre qualsiasi problematica all'interno dell'agone politico. Un sistema bipolare di questo tipo, maggioritario, eccetera, eccetera, in tutte le sue varianti, Porcellum, Mattarellum o altri cavoli, di fatto impone un sistema di due soli poli che rappresentano il miglior modo di governare, con due ricette diverse, anche con qualche interesse interno alla classe dominante differente, gli stessi obiettivi. Lo vediamo fortemente adesso con la questione della manovra e dei parametri imposti dalla BCE, nel senso che, come dicevi correttamente tu, la sinistra è sempre stata più fondamentalmente europeista. In questo momento, torto collo, anche la destra di Berlusconi, Tremonti, eccetera, accetta le ricette della Banca Centrale Europea e non potrebbe fare altrimenti. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che un sistema proporzionale, al di là del fatto che in questo momento non ci rappresenti nessuno, è un sistema sicuramente che denuda, come posso dire, l'ingiustizia del sistema attuale. Ovviamente non risolve i problemi, ma non a caso è il quinto punto, non è più. D'accordo. Senti Andrea, ecco, a chiudere, ecco, adesso c'è questa scadenza del 15 ottobre, bisogna fare in modo, insomma, che non si avverta proprio di necessità virtù, nel senso che neanche va bene dire che è stato importante che ci sia stata dettata dalle agende altrui, perché sennò da soli non saremmo riusciti a ricompattare politicamente il quadro, quantomeno delle soggettività antagoniste. Dovremmo sperare, insomma, di riuscire a costruire un'agenda che nasca dalle lotte stesse, dalle lotte reali che si riescono a costruire. Ciò nonostante, diciamo, comunque è essenziale, e immagino l'assemblea del 1 ottobre si rivolga anche a questo tipo di prospettiva, pensare a cosa succederà dopo il 15. Qui l'essenziale, la nostra capacità di stare dentro questi processi coincide con la capacità, diciamo, di costruire un qualcosa che vada anche al di là delle scadenze, no? Questo scadenzismo un po' è un po', diciamo, cioè ci serve da un certo punto di vista, ma può anche trasformarsi in una gabbia da cui non si riesce a uscire, no? Sì, assolutamente, è già una gabbia, nel senso che ci costringe, come dicevi tu, per la nostra debolezza come movimento complessivo, per cui ci costringe alla difensiva in un certo senso, no? E indubbiamente il problema essenziale, come per l'assemblea del 1 ottobre, in realtà è il 2 ottobre per la manifestazione del 15, il problema essenziale è il 16, se no lo scadenzismo ci soffocherà nella non efficacia delle mobilitazioni. Io credo che c'è un punto sostanziale che oggi è all'ordine del giorno e che il nostro appello e l'assemblea vuole porre, lo sta ponendo dentro la giornata del 15 ottobre anche alle altre realtà che lo stanno convocando, ma che da quel 15 ottobre vuole partire per dopo, che è la questione dell'indipendenza dei nostri interessi. La questione fondamentale è quella: se le soluzioni che noi dobbiamo trovare tutte, che nessuno di noi ha quella definita, però di composizione delle lotte, di un'agenda autonoma, ecco, si fa dandogli una prospettiva autonoma, per cui se noi vincoliamo e subordiniamo le nostre prospettive non solo all'agenda politica imposta dall'esterno, ma anche ai passaggi politici, che siano quelli di un passaggio elettorale, delle primarie all'interno del PD o che cacchio ne so io, ecco che ovviamente nessun movimento metterà in discussione lo stato di cose presenti, ma al massimo potrà smuovere qualche rivoluzione dall'alto, diciamo così, tra virgolette, per ricomporre un pezzo di classe dominante in una maniera diversa rispetto all'attuale. Insomma, non è una prospettiva che né ci alletta né ci risolve i problemi, ma anzi, vista la crisi, ce li approfondisce. Ce li approfondisce, siamo d'accordo. Allora, Andrea, grazie. L'appuntamento dunque è per grazie il 1 ottobre a Roma. Senti, ma il luogo dove si terrà questa assemblea? Guarda, l'abbiamo definito da poco, stiamo vedendo i dettagli. Comunque si farà all'Ambra Jovinelli, al Teatro Ambra Jovinelli, sabato 1 ottobre alle 9:30 di mattina. Perfetto, allora sabato 1 ottobre ore 9:30 all'Ambra Jovinelli. Ciao Andrea, grazie, a presto. Ciao, grazie a voi. Allora, sono le 13:16, le 13, l'1 e un quarto praticamente, ci siamo allungati notevolmente con il redazionali mattutini, ma insomma riteniamo sia comunque stato giusto approfondire questi temi. D'altro canto, insomma, qui in radio abbiamo presenze di lavoratori in carne ed ossa, ci sono i fabbri che girano perché insomma ci sono un po' di cosette da aggiustare. È stato complicato comunque fare il GR, ma ci dovremmo essere pronti, quindi tra pochi minuti dovremmo mandare in onda appunto il giornale radio di Onda Rossa. Sweet thing, boys, boys, Giant as Rotendo. Radio Onderwater and stay in movimento. Come la radio. Buongiorno a tutti, è il 14 settembre 2011, comincia sempre un po' in ritardo, anzi con molto ritardo, il GR delle 13. E cominciamo dagli esteri. Iran. Ahmadinejad, obiettivo è costruire altre 32 centrali nucleari. L'Iran necessita di costruire altre 32 centrali nucleari per produrre 20.000 megawatt di elettricità. Ne abbiamo messo in attività solo una di quelle, quella di Bushehr, inaugurata a inizio settimana. Gli altri progetti sono in fase di studio e valutazione. Lo ha affermato il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, scusate, nel corso di un'intervista esclusiva al quotidiano Washington Post, in cui ha tracciato le linee guida future del programma nucleare della Repubblica Islamica. Ahmadinejad ha quindi confermato che in caso di un'eventuale fornitura all'Iran di uranio arricchito al 20% da parte degli Stati Uniti, Teheran interromperà il programma di arricchimento. Noi non vogliamo produrre uranio al 20%, ha dichiarato, perché questo uranio non ci è stato fornito. Abbiamo fatto da soli, ma se oggi iniziassero a darcelo, interromperemmo la produzione. Ahmadinejad ha infine sottolineato che l'Iran ha in programma di costruire anche 5 reattori simili a quello di Teheran, dove secondo il governo vengono fatte ricerche a scopi medici sugli isotopi nucleari. Abbiamo bisogno di altri 5 reattori perché oltre 800.000 pazienti stanno usando questi isotopi per curarsi, ha concluso Ahmadinejad. Cambiamo zona, si parla di Belgrado, Pristina. Nel nord del Kosovo, gruppi di serbi residenti locali hanno istituito nella notte numerosi blocchi stradali per protestare contro l'annunciata presa di controllo da parte delle autorità di Pristina dei due posti di dogana di Jarinje e Brnjak, teatro delle violenze dello scorso luglio. I media di Belgrado hanno riferito di blocchi attuati lungo la strada fra Kosovka Mitrovica e Zvekan, fra Mitrovica e Ribarici, intorno a Leposavic e in altre località, dalla parte nord del Kosovo, a maggioranza di popolazione serba, che rifiuta l'autorità di Pristina. Domani scade il mandato della KFOR, la forza della NATO in Kosovo, che aveva assunto il controllo dei due posti di frontiera dopo gli scontri del 25 e 26 luglio scorso. E andiamo in Siria. L'esercito siriano è da stamani schierato in modo massiccio a ridosso del confine settentrionale libanese. Lo riferisce all'ANSA il sindaco di una delle località di Wadi Khaled, zona frontaliera nel nord del Libano, che preferisce rimanere anonimo per ragioni di sicurezza. La fonte afferma che la misura è stata presa con molta probabilità per impedire il flusso di civili in fuga verso il Libano dalle città siriane teatro della repressione e per intercettare eventuali soldati siriani disertori in vista di nuove massicce operazioni militari nella zona. All'inizio di maggio sono migliaia i profughi siriani giunti nella regione di Wadi Khaled, a pochi chilometri dalle località siriane più colpite dai raid delle forze di sicurezza. Citato stamani dal quotidiano panarabo Asharq al-Aswat, un attivista siriano di Tal Kalask ha denunciato, anch'egli mantenendo l'anonimato, l'arresto da parte delle bande lealiste di numerosi abitanti della cittadina frontaliera che dal Libano erano tornati nelle loro case dopo aver avuto assicurazioni dalle autorità siriane sulla loro incolumità. Passiamo alla Grecia. Allora, Un eventuale default della Grecia, una sua uscita dall'euro, avrebbero costi drammatici per la Grecia, per l'eurozona e per il mondo intero. Il commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha ribadito, paventando questi rischi, il suo no alle ipotesi che continuano a circolare in questi giorni. Lasciatemi dire una parola su queste idee, secondo cui la Grecia starebbe meglio fuori dall'euro, ha detto Rehn, parlando all'Europarlamento, riunito in plenaria a Strasburgo. Sono decisamente contrario, né la Grecia né l'eurozona starebbero meglio. È assolutamente certo, ha scandito il commissario, che un default e un'uscita dalla Grecia dell'euro comporterebbe costi drammatici sul piano economico, sociale e politico, non soltanto per la Grecia, ma anche per tutti gli altri paesi membri della zona euro dell'Unione Europea, così come per i nostri partner mondiali. In Afghanistan un'autobomba a Helmand fa 2 morti. Un kamikaze ha fatto saltare in aria il veicolo su cui viaggiava a un posto di controllo della polizia afghana nella provincia meridionale di Helmand, causando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 8, tra cui 3 donne. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Piwok. L'attacco ha indicato il portavoce provinciale Daoud Ahmadi, è avvenuto a un checkpoint dell'area di Gara Tala, nel distretto di Musa Kala, e l'attentatore suicida ha di fatto attivato l'esplosivo mentre era in corso la perquisizione dell'automobile. In Libia, invece, sempre sostenuti i flussi di rifugiati in Tunisia. Restano sempre consistenti i flussi di rifugiati dalla Libia in Tunisia. Nella sola giornata di lunedì, riferisce la TAP, sono stati registrati circa 11.000 arrivi nel posto di frontiera di Ras Jedir, mentre dal versante libico del confine sono stati sentiti ripetuti scambi di colpi d'arma da fuoco. Anche ieri il flusso è stato sostenuto con delle lunghe attese al posto di confine, che i rifugiati arrivati a bordo di autovetture hanno dovuto affrontare sotto la canicola. Ci sono comunque anche rientri di libici in patria con le automobili cariche di prodotti alimentari e di generi di prima necessità. Le attese per il transito sono lunghe anche a causa dei controlli minuziosi compiuti dalla polizia di frontiera tunisina. E in Iraq un altro attentato a Al-Anbar e a Illa, almeno 20 morti. 2 attentati sono stati eseguiti in 2 diverse città dell'Iraq, provocando la morte di almeno 20 persone in totale. Il primo attacco eseguito con un ordigno esplosivo è avvenuto nella provincia occidentale ad Al-Anbar, provocando la morte di almeno 15 soldati e il ferimento di altri 20, come ha riferito una fonte della polizia all'agenzia Xinhua. Una seconda esplosione provocata da un'autobomba è avvenuta nei pressi di Al-Illa, capoluogo del governatorato di Babil, provocando la morte di almeno 5 persone e il ferimento di altre 41, come riferiscono fonti del Ministero degli Interni. Passiamo alle notizie dall'Italia, cominciamo con il Molise. La vicenda Iris Bus precipita, l'attività dello stabilimento di Valle Ufita cesserà. Lo ha stabilito la Fiat dopo la rinuncia del gruppo di Risio all'acquisto della fabbrica. Il gruppo dell'imprenditore molisano era stato l'unico che aveva manifestato interesse a rilevare lo stabilimento di Valle Ufita, che produce autobus urbani ed extraurbani. Sembra dunque dover finire nel peggiore dei modi la vicenda che implica 700 dipendenti del gruppo Fiat e altri circa 300 dell'indotto. Di fronte all'impossibilità di portare a termine l'unica soluzione individuata che consentiva l'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale e industriale per assicurare continuità al sito, spiega Iris Bus Italia, società dell'Iveco, l'azienda sarà costretta, suo malgrado, ad avviare le procedure consentite dalla legge per cessare le attività dello stabilimento. Irisbus Italia si rammarica del fatto che le strumentalizzazioni sviluppatesi su questa vicenda non abbiano nemmeno consentito la verifica della nuova soluzione industriale delineata, che avrebbe garantito prospettive di occupazione e di reddito. E risponde il segretario confederale della CGIL Vincenzo Scudiere: come previsto, la Fiat non attende un secondo per creare ulteriore tensione nello stabilimento Irisbus della Valle Ufita, annunciando la cessazione dell'attività e le procedure conseguenti. Per il dirigente della CGIL adesso in questa situazione c'è bisogno che il governo si assuma tutte le responsabilità. Palazzo Chigi convochi l'incontro nel più breve tempo possibile e rifletta sul favore che fa con l'articolo 8 alla Fiat, che ripaga il paese con la chiusura di uno stabilimento importante, l'unico che produce autobus in Italia. Invece da Perugia, presidio CGIL contesta Marcegaglia al suo arrivo. Da Perugia hanno contestato l'arrivo del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Sdraiandosi a terra, i manifestanti del presidio CGIL si sono alzati dopo una decina di minuti applaudendo ironicamente e permettendo il passaggio dell'auto della presidente, che interverrà stamane al termine dell'assemblea generale di Confindustria a Perugia. E dalla Calabria, sempre del gruppo Marcegaglia parliamo, operai su torre a 56 metri. Da questa mattina ci sono anche 5 donne sulla ciminiera dello stabilimento di biomasse ETA di Cutro, al fianco dei mariti che da 2 giorni hanno avviato la protesta contro il mancato adeguamento dell'impianto per la produzione di energia elettrica, così come era stato assicurato. Gli operai della centrale del gruppo Marcegaglia si trovano in cassa integrazione e chiedono rassicurazioni sul loro futuro lavorativo. La protesta ieri ha coinvolto anche i figli degli operai, che insieme alle mamme si sono incatenati simbolicamente al recinto dello stabilimento per sostenere i loro congiunti. Stamani però le donne hanno deciso di rendere ancora più eclatante la loro forma di sostegno alla protesta, hanno deciso di salire sulla ciminiera per stare accanto ai loro mariti. Siamo esasperati, non ce la facciamo più, vogliamo risposte. Agli operai è stato comunicato che i dirigenti del gruppo Marcegaglia dovrebbero partecipare a un incontro in programma il 21 settembre, ma i lavoratori non si fidano. È da prima dell'estate che andiamo avanti di rinvio in rinvio, adesso vogliamo certezze. E passiamo a una notizia di carcere, il Sappe. Situazione OPG, dice il SAP, è arrivato a un punto di escalation di errori politici e amministrativi. Andiamo a leggere la dichiarazione. I recenti episodi di cronaca, come l'ennesimo suicidio di un internato nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto e gli esiti della commissione d'inchiesta sugli ospedali psichiatrici giudiziari guidata dal senatore Ignazio Marino, hanno riproposto il problema della gestione di strutture di reclusione che dovrebbero garantire l'assistenza ai malati e la sicurezza degli operatori, come appunto negli ospedali psichiatrici giudiziari. Troppo spesso i buoni propositi delle direzioni si scontrano con una cronica carenza di fondi, dopo i tagli disposti dal Ministero della Giustizia e i ritardi nella gestione dell'assistenza medica al Servizio Sanitario Nazionale, a cui bisogna sommare la diffusa e radicata indifferenza della politica verso questa grave specificità penitenziaria. Lo dice in una nota Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe. L'attuale crisi degli OPG è il punto di arrivo di una escalation di errori che hanno permesso l'incremento esponenziale dei ricoverati rispetto al numero di agenti, come ad esempio il blocco degli organici degli ospedali psichiatrici disposto dal Ministro della Giustizia. Così succede che in ogni reparto, a fronte di oltre 100 ricoverati, è presente un solo agente rispetto ai 3 previsti fino a qualche anno fa, per garantire la sorveglianza su 2 piani dell'immobile all'interno del cortile. È necessario che i politici, invece delle solite passerelle, conclude, si facciano carico del loro ruolo istituzionale per cercare di risolvere il problema delle condizioni disumane che si possono trovare negli OGP. Condizioni disumane, ricordiamo, sono molto più disumane per chi vi è recluso all'interno. Come ultima notizia, in riferimento alla corrispondenza di questa mattina, vi diciamo che questa mattina abbiamo ascoltato dalla voce di una nostra redattrice della vicenda di una donna rinchiusa nel CIE di Ponte Galeria, la cui espulsione era fissata per oggi, insieme a quella di altri due reclusi per la Tunisia. La compagnia aerea complice di questa espulsione è Alitalia. Alcune persone hanno cercato di impedirla entrando in contatto con il comandante dell'aereo, ma è stato impossibile. Agli espulsi non rimane che la resistenza all'espulsione, che potrebbe comportare il loro ritorno a Ponte Galeria. Però purtroppo questo sapremo dirvelo solamente alle 15, quando sentiremo l'avvocato. E salutiamo tutti quanti e vi lasciamo alle musiche di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo alle 15 il presidio sotto Monte Citorio e mi raccomando sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e mi raccomando anche sottoscrivete per questa radio. Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. On est tous solidaires face à la merde, à la galère. Sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyen, non en tant que chien. La France nous ronge à un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, frère derrière les barreaux. Et maintenant ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en plus on est tout chaud pour mission, exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, ça sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre et de brûler des voitures, un putain système haineux, cramé. Mais après tout, ça avance pas. Et je sais que ça les arrange si on se bouffe entre nous. Soi-disant démocratie, aux yeux d'un peuple endormi, efféminé, Jaimei Saad Bney. Les droits de l'homme, franchement où ils sont passés. Faut faire en somme que ça change et que les frères cessent d'être chassés. En charter, c'est nos frères qui chartèrent. Rapatriement, et maintenant la haine coule dans nos artères. Nous faire taire, franchement ça serait impossible. Quand on s'aperçoit que la plupart du temps c'est nous qui le prennent pour cible. La France est une gare, c'est on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer de loi et pouvoir voir bientôt à l'Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir. Frère, faut que ça pète. C'est que le système nous marche dessus, nous on baisse pas la tête. On n'est pas prêts de s'avouer vaincus. Des frères béton, tous victimes de trahison. De façon, s'il y aurait pas de balance, y'aurait personne en prison. La délinquance augmente, même les plus jeunes s'y mettent, pètent des bus, parlent de braquage. Et à l'école, ils raquettent des rondes de flics, toujours là pour nous pourrir la vie. Attendent de te serrer tout seul et te font voir du pays. Émeutes qui explosent, ça commence par interpellation, suivi de coups de bâton, puis ça se finit par incarcération. De façon, on se démerde, mec, ici on survit. Fume des substances nocives pour apaiser les ennuis. La galère n'arrange rien. Au frères, elles empirent les choses. Si certains prennent des doses, c'est pour pouvoir penser à autre chose. Les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la guerre. Ça va du gun jusqu'au fusil à pompe, puis brûle les Rockefeller. À quoi ça mène? Embrouille de cité, on se tape dessus. Mais tu te mets à chialer lorsque ton pote se fait tirer dessus. Encore un bico ou un négro, les Babylones sont fiers. Ça les s'arrange coup là, y'aura pas besoin de bavure policière. Frère, je lance un appel, on est là pour tout liquer. Leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. La France est une gare, c'est où s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Élysée des Arabes et des Noirs. La France aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible. Par mesure du possible, je viens cracher des faits inadmissibles. À vrai dire, les incans perdent le sourire, obligés de courir. Certains ont eu le malheur de mourir. Des homicides volontaires, j'ai une pensée pour leur mère, blessée par un décès, bavure classée en simple fait divers. Contrôle qui part en couille, des potes se font serrer par les keufs. J'ai le seum lorsque jette des pavés sur le G9. Mes potes, je les aime, c'est pour ça que je les laisserai jamais béton, même s'il y en a qui béton. Si on est tous des jeunes du béton, à présent, y'a plus de bluff, on vient dire toute la vérité, faut leur en faire baver. Là, la seule chose qu'ils ont mérité. Ma parole, les gars, s'il y en a un qui se la joue vénère, s'il veut se la raconter, cet enfoiré, je vais lui baiser sa mère. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'aimerais les faire pendre, mais on sait pas parce qu'il porte un flingue qu'il peut penser mettre à la montre. La vérité est masquée, à savoir ce qui s'est passé. Le mystère des GAV, un blème qui ne pourra être démasqué. J'ai dit steak à toutes mes gardes à vue, ils m'en ont fait baver, les enculés, mais ils ont pas tout vu. La France est une gare, et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France. C'est pas contrôle musclé, la bague passe et demande tes pieds bas. Si je les ai pas, là ça commence par insulter ta mère, ta soeur, tes frères, ça dégénère et tu te fais péta. D'où Nissan, la délinquance en moi, la haine en moi. Donc s'il faut insulter leur mère pour ça, ayez confiance en moi. Dans la rue, règlement de compte entre Cyril et Mamadou. La police est intervenue et a interpellé l'agresseur. Dans la rue, règlement de compte entre Badou et Mamadou. La police a tout vu et risqué en tant que spectateur. Donc est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, crois pas. Dans le fond, travaille pour ton pays, me bat pour ton pays. Persécution alors que je fais gagner de l'argent à ton pays. La France est une garce, et on s'est fait trahir. Mon seul souhait désormais est de nous voir les envahir. Y'a trop de faits marquants, donc je suis obligé de décider. Un flic tue un homme froidement et se retrouve acquitté. Sans banalité, non. Y'a trop d'inégalités, justice à deux vitesses, ils assassinent en toute légalité. Ils nous croient débiles, mais quand ça pète dans les cités, ils canalisent la révolte pour éviter la guerre civile. Et ouais, c'est pour quelle raison qu'on casse tout et qu'on se défoule. C'est que si les larmes coulent, le sang coule. La France est une garce. La France est une garce. La France est une garce. La France est une garce. À Deuil Montmagny, on est tous solidaires. Jusqu'à sa nuit, on est tous solidaires. Gare Charcel aussi, on est tous solidaires. On est pas prêts de se taire, lève ton doigt en l'air. L'État nique sa mère. Dans toutes les cités, on est tous solidaires. Quand ça part en couille, on est tous solidaires. Onda Rossa. Visita il sito www.ondarossa.info. Thank you. My body's walking.